Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini in redazione, Fabio Cantadori in regia e qui con me oggi per la prima volta su questi schermi voce narrante del basket di Eurolega e del basket NBA su Sport Italia. Grazie Guido Bagatta. Una buona giornata, ti ringrazio dalla voce narrante che è un complimento e anche l'accusa che mi viene rivolta di troppo spesso raccontare e non fare il classico tipo di telecronaca. Io sono convinto che, soprattutto perché il basket non è lo sport più popolare, non è il calcio, ha bisogno di essere ancora raccontato. È la mia battaglia anche internamente a Sport Italia. Non c'è dubbio. E quindi compagno di viaggio migliore di Coach Dan Peterson potrebbe. Sì, lì è una coppia che in questo momento è un po' divisa. Ieri ci siamo rimessi insieme a cena dopo la sconfitta di Coach. Sì, ovviamente io sono quello che ha perso di più. L'Armani ha guadagnato, il basket italiano ha guadagnato moltissimo. Io, con il fatto che Dan è ritornato dopo 23 anni, quasi 24, ad allenare, per me è stato una grossa perdita. Non gli auguro di tornare presto a fare quello che faceva come prima, però prima o poi tornerà e io sarò lì a braccia aperte ad aspettarlo. Com'è andata la cena, Coach? Va bene, Guido è insieme a Guido e Bruno Bogarelli di Sport Italia, abbiamo visto anche Allegri, il grande coach del Milan. Che no, di quello che hai visto, a parte Allegri, quello che mi hai detto stamattina. Come? A parte Allegri, cosa abbiamo visto oltre a... Bagatta era seduto in una posizione strategica, sembrava una sfilata di moda con le fotomodelle e Guido qua. Sì, quindi, però la prossima volta invitate anche me, Coach. Ah, beh. Deve parlare con Bagatta, che lui prendo appuntamento con Bagatta. Ti è passata la rabbia a cena? Poi la rabbia, cioè, per me sembra che sono cose momentanee, ma la gente mi chiede, cioè, ovviamente la colpa della cosa scena verso la fine della partita, 30 secondi dalla fine, è che io ho chiamato un time out, però non c'è stata un'interruzione nell'azione, ok? E quindi il time out, anziché venire 1 minuto e 10 secondi dalla fine, è venuto 30 secondi dalla fine. E dovevo per forza prendere questo time out e quindi io ho detto alla squadra in 2 secondi tiro da 3 e fallo subito, punto, amen, finisce il time out anche se 2 minuti. Eravamo lì in campo e gli arbitri hanno chiesto loro 3 o 4 volte di venire e è durato più o meno, a mio avviso, 3 minuti il time out. Allora il primo che mi è passato avanti era Jaric. Avevate bisogno proprio di 3 minuti di time out quando siete sopra di 6 punti 30 secondi alla fine. Lui è stato perfetto, fra l'altro educatissimo, ha detto coach, deve parlare con il nostro allenatore. Ha detto, se lui viene qua parlo anche con lui, quindi però la cosa è finita lì, ok? Per me potevano benissimo fare un time out di 0 secondi e dire andate in campo, chiudete la partita, ok? Quindi non prolungare l'agonia, questa è la mia, è una questione diciamo un patto non scritto ma inteso fra tutti. C'è chi dice Peterson ha fatto apposta per mandare un altro segnale a Siena e ai suoi giocatori. La gente può dire quello che vuole, se c'è un messaggio lo possono prendere, captare nelle onde magnetiche in aria, libero di farlo. Però il basket ha bisogno di questo. Io mi ricordo quando negli anni 80 c'era questo tipo di rivalità tra Dan e Valerio Bianchini, peraltro ancora un personaggio splendido con il quale colloquiare, una persona meravigliosa, e loro due avevano queste lotte in campo e anche sui giornali e poi sono rimasti, direi adesso, ottimi amici, due persone meravigliose, però questo faceva benissimo al basket. Se ci fosse veramente una rivalità vera in finale tra Milano e Siena, Cantù permettendo ovviamente, con oltre la partita anche della dialettica un po' estrema tra Pianigiani e Peterson, ben venga, anche perché essendo due persone intelligenti, educati, si ricomincia. Ma certo, Guido. Coach, invece sul campo, hai fatto male a Siena nel primo tempo con i tuoi centimetri, no? Rispolverando Pečerov e Petravičius che stavano seduti da un po'. Nel secondo tempo loro hanno chiuso la difesa e voi avete sparato a salve. Noi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, cioè eravamo anche più 10, all'intervallo 40-33. Abbiamo fatto 40 punti nel primo tempo, è una partita difensivistica fra l'altro, due grandi difese in campo, e 30 nel secondo tempo. Però lo stesso, perché ci sarà una reazione di Siena, è matematica, una grande squadra che ha vinto 4 scudetti in fila, può anche vincere l'Eurolega quest'anno poi ovviamente Panathinaikos permettendo, quindi contro forse la miglior squadra d'Europa siamo stati in partita, era 66, se non sbaglio 66-64, sì. 66-63 per noi, qualche minuto dalla fine, 3-4 minuti dalla fine, e avevamo la possibilità, e forse avevamo anche la palla in mano, sì. La possibilità di fare qualcosa. Lì non puoi perdere una palla, non puoi fare un tiro sbagliato, poi si raccea, ok? Loro ti rendono le cose più difficili possibile. Tocca a noi, cioè io posso lamentarmi di diverse cose, però le ultime azioni che non abbiamo eseguito bene è colpa solamente nostra. Guido, che ne pensi? Direi analisi perfetta, soprattutto quella del giorno dopo, perché io credo che determinate conferenze stampa dovrebbero essere veramente minimaliste, perché il giorno stesso della partita, sia che tu vinca o che tu perda, non hai, nonostante le statistiche davanti, un'idea lucida. Coach, non so quante ore abbia dormito stanotte, secondo me poche, zero addirittura, e non c'era neanche il baseball sul canale ESPN, c'era l'hockey su ghiaccio, quindi, anzi scusami, hockey sopra ghiaccio, e non hai visto neanche quello, quindi... Ecco, comunque il giorno dopo, come si dice, si capiscono meglio le cose, gli allenatori analizzano meglio. Credo che l'allenamento di oggi pomeriggio per il coach sarà molto molto importante, perché rispetto a ieri sera avrà molto più le idee chiare su quello che devono fare, come diceva, e non hanno fatto. Però peraltro, a parte l'1 su 11 di Greer, che è il motivo per cui hanno perso la partita, hanno giocato bene. Mancinelli è andato fuori per 5 falli quando non doveva andare perché era il go-to guy. Edz ha fatto la sua degna partita. Pechorov con i due lunghi in campo può stare lontano da canestro e può colpire da fuori. Jabber è in una forma che non si è mai vista in questo periodo dell'anno, tra l'altro lui essendo musulmano ha anche problemi non riguardanti lo sport, certo. E il coach è bravissimo a tenerlo in forma lo stesso. Hawking sta giocando bene, quindi ripeto, se non ci fosse stato il problema di Greer probabilmente avremmo visto una partita un pochino più tesa, magari avrebbe vinto sia nello stesso non di 7 ma di 3 o 4. 1 su 11 è abbastanza inquietante. 11. Inquietante, ma inquietante secondo me anche l'atteggiamento di Lingrier. Sei soddisfatto tu, Coach, di lui? 1 su 11 ci può stare. Guarda, ovviamente io spero che Lingrier non farà 1 su 11, ma guarda su Greer. Se uno viene ogni giorno in allenamento, c'è cioè lui, innanzitutto io amo questo ragazzo, okay? Cioè proprio un ragazzo d'oro, lavora in allenamento e per di più la grande cosa di Greer, zero atteggiamenti da divo, tutto per la squadra, una volta io in una partita io stavo per mettere lui dentro per Jabber, ok, c'è rotazione che do un fiato a Jabber da un riposo e lì mi ha detto: coach, io posso aspettare un secondo, io mi ha appena rubato due palloni. Okay? E questo tipo di ragazzo, poi l'ho messo dentro, ok? E lui voleva andare dentro, io aspetto il secondo coach, poi dopo vado dentro, però adesso Ibi è il momento caldo che ha rubato due palloni, lasciamo lui dentro un secondo. Cioè, quanti giocatori ti parlano in questa maniera qua? Lui veramente è un ragazzo d'oro, c'è cioè tutto per la squadra, che vuole veramente fare grande figura. Peccato per ieri, il tiro non è andato da, ma non solamente lui, ok? Quindi avevamo altri tiri smarcatissimi che non sono andati dentro, però ho fiducia in lui. Ieri, meno male, la panchina ci ha dato un grandissimo contributo, cioè Marco Mordente ha giocato 6 minuti, ha fatto 3 punti in canestro da 3 con una determinazione, cioè proprio come voglio vedere un giocatore farlo. Pechorov 10 punti e 3 rimbalzi, Petravic ha fatto 14 punti e anche 9 rimbalzi, 8 rimbalzi in attacco a Petravic. Mai avuto nella mia carriera un giocatore prendere 8 rimbalzi offensivi in una partita, e lui l'ha fatto ieri sera. Grazie coach, buon ciao lavoro. Ragazzi, ciao Guido, un abbraccio. E coach, buon allenamento, ciao. E mi raccomando, per Varese. Adesso ci fermiamo un attimo Guido, poi continuiamo a chiacchierare anche con gli ascoltatori. 800 24 0024, numero verde traffico. Palla spicchi. Dunque, torniamo insieme, chiacchieravamo io Guido Bagatta sulla chimica dell'Armani e su Lingrier, che comunque, al di là delle parole difensive, ma molto accorate del coach, ma fa bene anche perché a difendere il suo giocatore. Ha una squadra di bravi ragazzi, è la cosa importante, sì. Sia Cantù che Milano che Varese, e che Siena, che sono le tre squadre che si giocheranno presumibilmente il titolo, sono fatte tutte da bravissimi ragazzi. Non c'è la superstar, non c'è nessuno che troverete alle 3 del mattino in discoteca il giorno prima della partita, come succede magari in altri sport. Questa è la prima cosa. Il problema però è che Greer, preso per fare il playmaker, in minuti prima del coach, cioè ante coach, non è un playmaker, non lo è mai stato. È molto condizionante. E allora, se non è un playmaker, deve fare canestro. Se non fa canestro, non è play e non fa canestro, è un problema. È meglio Bagatta. Perché ogni tanto magari qualche canestro lo fa e costa anche meno. Ascolta Guido, a proposito di segnali, ieri Rakovic e McCaleb tenuti in turnover, tenuti fuori per questione di turnover da Simone Pianigiani. C'è chi dice Pianigiani ha voluto dire a Milano: vinco anche senza un giocatore come Rakovic, che è quello di stazza contro una squadra di grande stazza. Altri dicono: non fa giocare Rakovic, così se perdo la partita Milano mi ammazza con i suoi lunghi, però Rakovic era fuori, la prossima vediamo. È stato un segnale premeditato anche questo secondo te? Magari stiamo parlando di aria fritta, però no. È stato un segnale premeditato anche questo oppure no? Più la prima della seconda sicuramente per Simone Pianigiani, però c'è anche un discorso che Siena ieri, lo so perché l'ho immaginato, ma ho anche parlato con chi di dovere, aveva già un pezzo di testa a Barcellona, mancano 3 settimane. Ha un impegno che potrebbe veramente, come diceva il coach, portare Siena all'Eurolega, perché la vera finale è Siena-Panathinaikos. Tu sei convinto di questo? Assolutamente sì. Chi va in finale di quella partita vince l'Eurolega. Siena è partita con i disfavori del pronostico contro l'Olympiakos e ha fatto una serie meravigliosa. Parte con gli sfavori, con la S davanti, contro il Pana, con il Panathinaikos, e potrebbe fare il colpo. Quindi sta cercando Pianigiani di capire un'altra cosa. Ricordiamoci che in Eurolega possono giocare tutti. Certo. Nel nostro campionato c'è la rotazione, chiaramente. In campionato la volta precedente Harrison era rimasto fermo, questa volta Rakic è rimasto in panchina e Harrison ha giocato. Stiamo parlando del famoso equilibrio tanto discusso tra comunitari e extracomunitari. Poi Siena è una vera macchina da guerra. Bisogna sottolineare anche, ieri Carraretto non ha giocato, ma i tre italiani di Siena, Carraretto, Aradori e Res, sono tre giocatori pazzeschi, perché ho visto fare a Res una cosa. Allora, lui non era mai entrato nelle prime partite ad Atene, non aveva giocato, era in palestra con me che faceva pesi durante il pomeriggio, perché ad Atene era anche brutto, non c'era neanche da andare in giro a vedere i monumenti. Nella partita successiva è entrato a Siena, ha fatto 2 partite, nella quarta ha fatto 2 canestri in un nanosecondo e ha ribaltato completamente la situazione. Ed è un giocatore che è sempre chiaramente condizionato in Eurolega, perché mettendo tutti in campo, lui e Aradori sono destinati a pagare. Non parliamo poi di Akindele, che è l'altro che in campionato non lo vedete mai, che nella rotazione di Siena. Altro giocatore italiano, il quarto, non dimentichiamocelo, quello che fa veramente la differenza è Andrea Michelori. Anche ieri Michelori, che è il rocca italiano, occupa spazio, ieri aveva anche una tendinita, non stava bene, 4 gomitate, 2 canestri, 2 tuffi e ha cambiato la partita. Andrea è un giocatore, coach lo dice apertamente, che qualsiasi allenatore vorrebbe avere, e forse sarebbe la prima o la seconda pedina per fare una squadra di lottatori. Sì. Lui ha Rocca, ecco, Michelori è praticamente il pari ruolo italiano di Rocca. Senti, in prospettiva, secondo te la fisicità dell'Armani può essere un fattore in una ipotetica serie con Siena che verrà? Non so quando possa venire, magari in semifinale. Allora, intanto può continuare con questo filo? Intanto in semifinale dovrebbe venire fuori Cantù Milano. Secondo gli accoppiamenti, secondo me, e lì sarà la vera chance che si giocano queste due squadre con budget diverse, prospettive diverse, peraltro tanto di cappello, proprio sombrero a Cantù, perché se guardate il roster di Cantù, sulla carta vale quello di Montegranaro e meno di quello di Biella, e poi Trincheri e tutti hanno fatto un lavoro molto molto importante, quindi veramente complimenti. Il discorso, la pesantezza, nel senso non di uno che parla come me, magari fisica è importante fisica. In Eurolega, sì. Un po' meno nel campionato italiano, per assurdo. Tant'è che ieri Siena era leggera, come è stata leggera contro l'Olympiakos. L'Olympiakos ha 8 giocatori con più di 2,08 metri di altezza, mai visti neanche in NBA. Stonerhoek era praticamente il terzo lungo, a volte il secondo se non il primo per ragioni di falli in quella serie, e marcava Borussis che è il doppio. Come ha fatto Stonerhoek, praticamente quando Borussis abbassava la palla lui gli metteva le mani addosso. Quindi, per assurdo, ti dico, la pesantezza conta, ma se contasse veramente l'Olympiacos avrebbe vinto 3-0 e ieri Milano doveva vincere, perché il quintetto Bad di Siena, il centro era Lavrinovic che gioca a 20 metri da canestro. Certo. Simone, provincia di Bologna, primo ascoltatore di oggi, 800 24 0024, anche messaggio 349 238 6666. Con chi ce l'aveva? Dana alla fine chiede Maurizio da Bologna, ce l'aveva con Pianigiani e con Siena tutta per questa storia del time out di 3 minuti. Simone, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io chiamo da Imola. Sì. Che non lo sapete, comunque abbiamo dalla squadra della 2 in Lega 2 a scendere fino agli amatori ci saranno 50 squadre di basket. E allo 24 non si sente, quindi a palla spicchi la sentiamo veramente male. Adesso sono in autostrada, quindi vi sento così. Però se riuscite a fare qualcosa, perché veramente a Imola Radio 24 è impossibile sentire il venerdì dalle 2 alle 3. No? Aspettiamo il podcast la sera, se no è veramente una rabbia. Ecco. Sì, ci vede, si vede che c'è qualche onda distorta, perché anche noi non la sentiamo benissimo. Non la sentiamo benissimo, comunque proveremo a provvedere, tante le enclave del basket in Italia che chiedono visibilità. Io continuo a pensare che sono fondamentali e sono la spina dorsale, però non si va da nessuna parte. Primo, se continua ad esserci questa egemonia senese, perché un prodotto in cui tu sai, cioè un libro giallo in cui tu sai chi è l'assassino alla prima pagina, lo compri fino a un certo punto, anche se è scritto. Sì, però non è colpa di Siena, è colpa degli altri. Bisogna fare qualcosa. Non è so colpa che degli altri, Siena sono più cosa bravi. Facciamo? E purtroppo è un problema che il basket sta diventando come la pallavolo. La pallavolo è dominata da Trento, città meravigliosa, però è provincia proprio, anzi, una provincia molto alta e molto lontana. Chiaramente gli sport fanno la differenza quando ci sono in ballo le grosse città. Certo. Abbiamo parlato degli anni 80, Milano-Roma, Bianchini contro Peterson, D'Antoni contro Wright. Era il massimo, i giornali, la prima pagina sulla Gazzetta, via dicendo. Conta che il basket, nonostante gli sforzi di chi lavora in Gazzetta come Luca Chiabotti, che sono appassionati scusate, di pallacanestro, il basket va in prima pagina molto raramente. Il ritorno di Dan in attività per una settimana ha riportato il basket dappertutto, che è un bene. Però peraltro è anche un male, bisogna parlare anche del basket giocato, non di quello che ha fatto la differenza che torna ad allenare. E il problema è che se le squadre delle grandi città fanno quello che hanno fatto in questi anni Roma e Milano, io dico sempre, scusami, faccio un paragone che non c'entra nulla, Vanity Fair è il miglior settimanale che c'è. Sì. Senza fare i nomi di tutti gli altri che tentano di fare Vanity Fair 2, basterebbe copiare Vanity Fair. Okay? Non lo fanno perché non è bello copiare. E poi si lamentano che non vendono. Allora, Siena è un modello di una città piccola, però lascia stare il resto. Per come sceglie i giocatori, per come gestisce le situazioni, copia Siena, oppure Cantù. Invece Milano, questa purtroppo è la verità, Milano e Roma in questi anni hanno fatto tutt'altro, hanno scelto altre vie prendendo dei giocatori assolutamente improbabili, questa è la verità, spendendo un sacco di soldi e facendo il copycat, come si dice in inglese. Ricorderai l'anno in cui la Fortitudo vinse il titolo, Milano prese i 3 giocatori principali della Fortitudo, dove non arrivando a nulla. Sono un paio d'anni che Hawkins fa avanti e indietro da Siena a Milano. Se Siena lo lascia andare, con tutto il bene che si può volere a Hawkins, adesso mi fermo qua, la stessa roba di Eze. Quindi non Finlay e di Finlay. Esatto, non ci vuole di Finlay, non ci vuole molto. Copia, se quelli bravi, non è un reato copiare. Qui non c'è il copyright, ispirati. No, indubbiamente così. Certo è che bisogna fare qualcosa per l'appunto, altrimenti la pallacanestro italiana non è più un assolutamente. Un io credo che se ne renda Minucci, è troppo che il presidente generale Minucci a rotazione. Esatto, a Minucci è troppo intelligente per non rendersi conto di questo, che guadagna tutto il movimento se lui non vince sempre tanti a pochi, al di là che poi a Siena lo portano in giro praticamente come se fosse un fantino che ha vinto 11 pali come Aceto. Lo sa anche lui, il problema è che se gli altri fanno di tutto per non arrivare dove è arrivato lui, cosa ci può fare? Portiere volante, un anno qui, un anno là, Sta bene Minucci, sta da Dio, sì. Ho idea anch'io. Ci fermiamo adesso per la borsa, poi torniamo a chiacchierare insieme di NBA con Guido Bagatta, perché ci siamo, insomma, playoff al via domani, alcune serie interessantissime come quella ormai ben nota di cui si è già detto un sacco di cose. che vedrà coinvolto Gallinari contro una squadra non da poco. Dovrà solo mettere le mani addosso a tale Kevin Durant, che è praticamente con LeBron James il miglior giocatore dell'NBA in questo momento. E Derrick Rose, poi ti chiedo dove lo metti. No, però, Derrick Rose no, sta nel ruolo che può marcare Gallinari. Derrick Rose quest'anno è praticamente un alieno che è cascato per caso sul lago Michigan. Ci vediamo un attimo e poi torniamo con questi argomenti anche con voi. 800 24 00 24. Palla spicchi. Torniamo, è sempre qui con me Guido Bagatta, come dicevo prima, voce narrante del basket di Eurolega e di NBA su Sport Italia. Non è Eurolega, non è NBA, ma Treviso è in attesa trepidissima per... No? Era eufemistico come... No, non lo so, perché... Guarda, Alessandro, a Treviso ci tremano le gambe, sarà il canto del cigno del basket ad alto livello a Treviso. Qualcuno, secondo me, è in trepida attesa, qualcuno ovviamente ha già riposto le intenzioni future, perché come sapete Benetton molla alla fine non di quest'anno, praticamente fa ancora un anno, credo. Sì, fa ancora un anno. E il problema è che l'Eurocup... Io non ho mai amato, sin da bambino nel calcio c'era la Coppa delle Fiere, non so se te lo ricordi, non ho mai amato le altre coppe, cioè o c'è la Coppa dei Campioni, l'Eurolega, tutti gli altri, nessuno si ricorda. Milano ha vinto una Coraci, credo, che era praticamente l'Eurocup, nessuno si ricorda che Milano ha vinto una Coraci. Quindi perché? Adesso niente da dire, Treviso ha fatto un bel percorso, organizza le finali e c'è anche andata, chiaramente sarebbe stato un disastro se fosse uscita. Come il Barcellona, col Cajasol, che è una squadra spagnola ben messa, ha davanti, se non sbaglio, la semifinale col Cajasol, una partita intensa, però tutto questo, ripeto, rispetto alle cose vere che sono campionato Eurolega, che Treviso ha vissuto nei momenti storici in maniera... da protagonista, ecco, rispetto a tutto questo lascia un po' il tempo che trova. Mi spiace, questo è quello, no, il mio pensiero, sai, ci mancherebbe. Comunque nell'ambiente del basket non tutti sono rassegnati alla dipartita della famiglia Benetton. Sì, però vedi, molti dicono, ma anche il coach, ma potrebbero cambiare idea. Allora, ma... il problema non è questo, il problema è che la famiglia Benetton ovviamente da come Scavolini dal basket non ha mai guadagnato realmente a livello di pubblicità. Non ha bisogno il gruppo Benetton di chiamare, ma neanche credo alla Formula 1, ti ricordi quando con Rocco Benetton gestiva una scuderia di Formula 1? È per passione, ma soprattutto per una situazione sociale della zona, e hanno fatto il bene di Treviso con la Ghirada, con tutto il resto. Se hanno deciso di uscire è perché c'è una disaffezione delle nuove generazioni e tutto il resto. Il basket deve continuare anche senza queste cose. Il problema, se posso andare avanti, se non hai altro argomento, il problema del basket qual è? Allora, nel calcio c'è gente che perde soldi, ne parlavo ieri sera. Allora, chi guadagna dal calcio probabilmente sono due o tre, uno di questi è sicuramente Pozzo e l'altro è Cellino, probabilmente tutti gli altri perdono soldi, ma li perdono perché li guadagnano in un altro modo. Zamparini ha le sue convenienze parallelamente per Mercatone Z, Moratti li perde, però poi ha un'esposizione mediatica pazzesca che probabilmente si riflette su altre situazioni. Nel basket non c'è questa storia. Armani perde soldi e non guadagna niente a livello di immagine, nel senso che Armani, il gruppo è talmente grosso. Ecco, la domanda che ti faccio su questo discorso: Armani, che è il re della moda, può permettersi una squadra non vincente? No, giocandosi, senso, no, cioè si no. gioca la squadra sua, il suo nome, la sua faccia. Infatti, io guarda, che adoro il mondo di Armani, io da ragazzino ho scritto un libro sul football americano sponsorizzato da Giorgio Armani, che ha creduto quando avevo 20 anni in una cosa che né io probabilmente, lui sicuramente non conosceva. Quindi il personaggio io l'ho sempre visto, ammirato, e non ha sbagliato una mossa. Ecco, quello che mi sono sempre chiesto, e una volta mi sono anche permesso di dirgli, ho detto: mi scusi, ma lei che è un vincente in assoluto, come può pensare di non vincere? E soprattutto voi che siete il re del marketing in assoluto, in questi anni non siete riusciti a portare il pubblico al forum. E questo è il problema. Esatto. E lui mi ha sorriso. E non lo so, evidentemente non voglio andare avanti perché ci sarebbero cose un pochino più come si può dire, non delicate, ma un pochino più all'interno, sottili. Più sottili. Io, e poi non è neanche una questione di budget, perché comunque il budget quest'anno ce l'aveva, ma anche l'anno scorso, due anni fa, insomma, quindi, il budget è elevato. Stiamo parlando di Montegranaro che ha, oppure che ne so, di Biella che ha 4 milioni di budget, anzi meno sicuramente, e non vince per quello. Qui stiamo invece discutendo su altre cifre, che peraltro rispetto all'Olympiacos quest'anno aveva 35 milioni di euro di budget, è uscita con Siena e magari rischia anche di perdere con il pane il campionato al greco. Solito. Olympiacos butta un pozzo di quattrini e non raccoglie mai nulla. Assolutamente. Evidentemente a loro va bene così. Però questo interrogativo su un Armani, sull'Armani così com'è, rimane, ed è un interrogativo che ci portiamo dietro da diverse stagioni. Ma può Giorgio Armani permettersi una squadra molto costosa? Ma io ti dico, guarda, più di questo è il fatto di non avere il pubblico. Cioè adesso con Peterson, che è un po' veramente come scoprire l'acqua calda, al di là delle qualità tecniche di Dan, il fatto di averlo riportato che avrebbe portato più pubblico, è aumentato. Ma io, in una città come Milano e l'Interland, con una squadra forte, io mi aspetterei 7.000 spettatori paganti, anche se c'è la crisi. Va benissimo, 10 euro a testa, invece 15, ma ci dovrebbero essere, e invece non ci sono, questo è il dramma. Milano però ha bisogno anche di personaggi che non sono arrivati, questo è un altro discorso, okay. Senza criticare, io non voglio gestioni presenti, passate, magari future. Milano ha bisogno di un giocatore che faccia la differenza a livello mediatico, uno vendibile, sicuro. Puoi adorare Jaber, Rock, Greer, però non ti però danno niente. Però vuoi Iverson, hai capito? Benissimo. Magari non ti serve in campo, però ti serve per portare la gente al palazzetto. Un giocatore che faccia la differenza, o che si crei la possibilità di farla. Siena ha un giocatore che quest'anno ha avuto hernia inguinale e hernia al dischio, Malik Ashton, che in una piazza come Milano è il giocatore che salta di più in assoluto. Una piazza come Milano, se lo costruisci bene e se è fortunato di non star male, può veramente diventare il patto del basket anche a livello mediatico. Capito? No, giocatore clamoroso Malik Ashton, clamoroso. E questo, attenzione, Minucci lo ha scoperto, Minucci lo ha portato e Minucci lo ha sostenuto quando chiunque l'avrebbe tagliato, perché uno che ha ernia inguinale, ernia di disco nella stessa stagione, a distanza di due mesi, dice: senti, vabbè, torna in Texas, curati e poi vediamo l'anno prossimo. Dunque, adesso voglio andare sull'argomento NBA dritto, però prima Andrea da Biella, buongiorno. Mi abbassi la radio perché sennò sento ritorno in cuffia, grazie, e dica. Pronto, buongiorno, io avevo una domanda per Guido. Sì. Portiamoci avanti nella serie dei playoff. Come vede una semifinale Celtic-Miami? E poi volevo capire se era cobiano o no, come me. Arrivederci, grazie. Allora, aspetta. Dimmi se sei cobiano, al di là del fucking fagot che gli è costato $100,000 e ha creato un putiferio mediatico. Allora, io pazzesco. Ti dico per questo, io ho un'amica di Foggia che ha dato in macchina del terrone a uno con la macchina targata Lecce. Sì. Quindi il momento della contesa è l'area di Foggia, lei, ma proprio foggiana di madre di te, quindi capisci, può capitare. Quanti bergamaschi quando guidano a un bresciano gli dicono bresciano DM, capito? Sì. A lui è scappato e quindi giusto è punirlo, però hai capito? Sì. C'è anche da discutere sull'invadenza delle telecamere. Sì, assolutamente. Se l'ESPN non l'avesse preso il labiale, non se ne è accorto neanche l'arbitro. Perché normale, non ha sentito neanche l'arbitro. Ma chiunque abbia fatto sport ha detto qualcosa a un avversario, a un arbitro, senza essere stato beccato, pizzicato. Guarda, delle telecamere. Comunque, io sono cobiano, come sono lebroniano. Io ho una sola vera passione cestistica parlando, che si chiama Danilo Gallinari. Poi tutto il resto per me, il Beli è un mio carissimo amico, è un fenomeno. Andrea Bargnani è uno che fa 20 punti a partita dall'altra parte dell'oceano, però io da un paio d'anni per Danilo Gallinari, perché sono convinto che se sarà fortunato fisicamente diventerà un vero e proprio crack. Tutti gli altri li vedo molto bene, però se mi chiedi la mattina, la prima cosa che penso appena mi alzo è quanti punti, come ha giocato il Gallino. Dopo invece facciamo il tabellone, ti faccio fare Obama. Ti faccio fare il tabellone. Pensa che quello dell'NCAA che abbiamo fatto Sport Italia non ho chiaramente beccato tutto, ma ho preso in pieno Connecticut, non mi hanno dato niente, non mi hanno neanche riconosciuto in diretta di aver preso Connecticut, e Kemba Walker, che sarà il nuovo Dwayne Wade come miglior giocatore. Senti, invece, un voto alla stagione degli italiani, visto che ne stavamo parlando. Bargnani 21.4 punti a partita, è calato nei rimbalzi, l'accusa che qualcuno gli muove, sempre morbido sotto canestro, però non gli puoi nemmeno chiedere di fare il go to guy e di fare anche il pivottone, di fare i blocchi. Però questa era la stagione dove lui è in una squadra onestamente imbarazzante, sia prima dell'infortunio e soprattutto dopo, lui doveva fare il capo. Si è visto che Bargnani non può fare il capo. Tutto qua, è un ottimo giocatore paragonato, anzi un ottimo, un gran giocatore paragonato a Nowitzki e a tanti altri. Nowitzki ogni tanto deve fare il capo e fa il capo, Bargnani non può fare il capo, questa è la prima sentenza. Poi, ripeto, far 21 punti in NBA, tanto di cappello, gioca già più vicino a canestro, cresce di partita in partita, questo rumore credo che sia il mio iPad che ogni tanto impazzisce, aspettalo. Lo mettiamo in stand-by. No, se l'ho buttato per terra, lo schiaccio adesso. È uno stand-by un po' particolare, da 599 euro se lo schiaccio. Costoso, ma vale la pena. Mi hai chiesto anche di Bellinelli? Sì, te lo stavo per chiedere. Bellinelli è il ruolo più difficile in assoluto, perché nel suo ruolo gli afroamericani... 10 punti e mezzo, non male. Però nel suo ruolo gli afroamericani stravincono e sì, ce n'è una quantità... Lui è... Gli ha trovato la squadra giusta, nel posto giusto, forse ogni tanto tira un po' troppo, però tra i bianchi è in assoluto il giocatore con il più veloce rilascio uscendo da un blocco. Lui prende la palla e ha già tirato. E questo fa la differenza, perché nell'NBA, dove si va al doppio del nostro campionato, se uno non ha quella qualità lì non riesce mai a tirare libero. Non si smarca mai. Ma stagione positiva comunque quella di Bellinelli dopo tanta sofferenza. Allora, diamo 6 a Bargnani. Bravo a star là. Sì. Sì, bravo, però, comunque, però non si sta malissimo, a New Orleans. No, però sai... 6 a Bargnani, 7 a Bellinelli e... Gallinari ne parliamo subito dopo il traffico, e cosa 8, dici? Sì. Dopo il traffico, con calma, Danilo Gallinari. Va bene, ok. Traffico. Palla spicchi. Dunque, torniamo insieme con Guido Bagatta e con Danilo Gallinari. Allora, Danilo, la stagione dell'addio a New York, la stagione della nuova realtà, la stagione da 15 punti e 6 a partita, ma questo mi sembra un dettaglio. La stagione in cui comunque sembrava aver fatto un passo indietro, ma forse non è così. No, non è così, assolutamente. Tra l'altro si è fatto male anche 2 volte e mezzo, sì. Non incidenti gravi come la schiena, che ha comunque condizionato i primi 2 anni di Danilo in NBA. Si è fatto male a un alluce, si è fatto male, anzi 3 volte, a un alluce, a una caviglia e al ginocchio. Quindi 3 infortuni in una stagione, leggeri, che gli hanno permesso comunque, adesso rientrerà già nella prima partita con Oklahoma City durante il weekend. Anzi, lui ha guadagnato andando a finire a Denver. Sicuramente il mercato è diverso. Tu sei a New York, è come essere alla Scala, per un tenore cantare alla Scala, e sei a Denver invece è come cantare, insomma, dall'altra parte. No, fai tu al Sistina, ok, quindi un teatro famoso, ma sicuramente con meno appeal. Il vantaggio è che a New York c'era una pressione pazzesca, poi con questa storia di Carmelo Anthony sembrava che fosse colpa di Gallinari che Carmelo Anthony non arrivasse, e quindi era molto difficile rimanerci. A Denver ha trovato intanto un po' di aria pulita, una città diversa, sicuramente anche con un po' di crisi come tutta la periferia americana, però un posto dove la gente adora i Nuggets, un allenatore che adora Danilo Gallinari, una squadra senza star, con 2 playmaker che fanno la differenza, sono Felton e Lawson, e soprattutto, anche se potrebbero fare meglio, gli danno la palla, perché spesso e volentieri, come succedeva anche a Bargnani il primo anno, non gli davano mai la palla a New York lo stesso Felton. Danilo finirà in gloria una stagione, l'anno prossimo sarà la sua vera stagione, il quarto anno, sempre a Denver, perché ha l'opzione che era stata rilevata a New York e quindi è passata a Denver, dove potrà fare 20-21 punti a partita, 10 rimbalzi. Sentivo una telecronaca nazionale di Denver con Oklahoma, quindi non con questi locali, che ovviamente hanno qualche vantaggio in più perché sono un po' di parte. Si stanno tutti innamorando di Gallinari, perché un 2,11 con quel trattamento di palla, i paragoni si sprecano, è il nuovo Bird, è il nuovo Nowitzki, lui è un nuovo Gallinari, nel senso è un po' tutto, credimi, fortuna e un po' di pazienza, avremo veramente il crack tra le mani. Sono un po' di parte, ma cerco di ragionare fino certo. Io volevo farti stiamo aspettando anche Flavio tranquillo, così facciamo un bel tabellone, una bella Obamata. Però comincio in attesa che venga ripristinato il collegamento, comincio da te. Anzi, Flavio, ciao! Buongiorno. Buongiorno a lei. Siamo qui pronti col tabellone, sei contento? Te l'aspettavi. Come ai tempi di radio, come ai tempi di Radio Peter Flowers. Esatto. Senti Flavio, prima del tabellone che poi compileremo con te Guido, una tua impressione su Milano-Siena di ieri sera, cosa ti ha lasciato? Se ti ha lasciato qualcosa? Beh, una squadra che sa come vincere, una squadra che non sa ancora come vincere, non è una notizia, però direi quello che è rimasto, una squadra che è in grado di dosare il proprio sforzo e di metterne scientificamente determinate dosi in determinati momenti della partita, e una che invece non riesce ancora a far questo, è un diesel, il che spesso basta, ma contro le squadre appunto che hanno invece questa capacità di schiacciare il bottone, non so, tipo i Celtics e i Lakers nell'NBA tende a non bastare. Allora partiamo da Celtics e Lakers, visto che li hai citati nel tabellone. Celtics e Knicks. O Celtics e Lakers addirittura. Da una parte e dall'altra. No, non sarà la finale, non so cosa ne pensa Flavio, non sarà sicuramente il rematch alla finale dell'anno prossimo. Ci arriviamo. New York-Boston mi sembra chiusa, ragazzi. Mica tanto, dite? Secondo me. 4-2 con fatica molto più di quello che si potesse pensare un mese fa per Boston. Flavio? Non so se è così chiusa. Potrebbe benissimo vincere 4-0 Boston, però New York vince una delle prime due e non la vedo così chiusa. Lakers Belinelli contro Kobe. 4-0 con purtroppo la frustrazione dei Lakers dalle multe a tante altre cose, che già da gara 1 si abbatterà sugli Hornets, con però la speranza che Belinelli faccia una buona partita innanzitutto domenica, anche perché la facciamo su Sport Italia, ma poi per tutta la serie che si faccia vedere a livello nazionale. Flavio? Non vorrei giocare contro Kobe Bryant la prossima settimana per nessun motivo. La più interessante invece, Flavio, Denver Oklahoma City, ne abbiamo già parlato. La miglior serie di primo turno, il peggior avversario possibile per i Denver Nuggets, per le sue caratteristiche. In generale mi aspetto che se la serie dovesse allungarsi, George Karl e la sua maggiore esperienza possa essere un piccolo fattore. Tenderei a dire 4-2 o 4-3 Thunder, però c'è equilibrio e quella invece non vedo l'ora di vederla davvero. Eh sì. 4-2 anch'io per Oklahoma City. Secondo me non è la miglior serie all'Ovest, perché è quella che stai per dire. Dallas e Portland si ammazzeranno fino all'ultimo, fino alla 4-3, sì. Perché Dallas, che ha giocato bene tutta la stagione, becca una squadra come Portland che è entrata decisamente in palla grazie a Wallace, che è arrivato per ultimo negli ultimi mesi, nelle ultime settimane. Sarà quella una bellissima serie che peraltro per vari motivi anche di orario televisivo e tutto, veramente in pochi, solo i maniaci che non hanno da fare niente il giorno dopo con League Pass potranno ammirare, però comunque c'è, se la giocano. Sarà un mese in cui si dormirà pochissimo. Come la vedi questa serie, Flavio? La Sportland, intendi? Sì. Sicuramente molto equilibrata. Sicuramente due squadre che non vogliono uscire, perché chi riesce in casa ha comunque un'altra mini delusione che si allunga la serie delle mini delusioni. Mi sembra che Dallas abbia mezzo zicchi in più, però anche qui grosse sicurezze non ce ne sono. Direi 4-3 Dallas o viceversa. Memphis San Antonio chiusa? Direi di sì, anche attenzione però, perché i Memphis Grizzlies hanno fatto una roba da ufficio inchieste che in America evidentemente non c'è, hanno pilotato. Le ultime due partite sono riusciti a perdere a Portland, va bene, ma con i Clippers, per prendersi San Antonio, per non arrivare in una situazione, cioè settimi, lasciare New Orleans ottava e arrivare in modo di prendersi, viceversa, di prendersi San Antonio, cioè arrivare ottavi loro, New Orleans settimi, e per prendersi San Antonio Spurs, che loro sperano che siano più abbordabili. In tutto questo si è fatto male anche Ginobili, che forse salterà la prima partita. Direi che il pilotaggio è stato ben fatto, anche se non posso pensare che San Antonio perda con i Grizzlies, però una gliela portano via e magari anche due se Ginobili non sta benissimo. 4-1 Flavio? 4-1, 4-2 non sottovaluterei Memphis, che è il miglior gioco di post basket in attacco a parte i Lakers di tutta la Lega, e San Antonio lì non ha tanta profondità e non ha tanti centimetri. Abbiamo ancora 2 minuti, andiamo con le altre, le ultime 3 serie al volo. Indiana-Chicago con Chicago, numero 1, Derrick Rose, Thibodeau, insomma mille storie intorno a questa squadra che ha vinto la regular season. Qui storia non ce n'è, no Flavio? Capottissimo, con Thibodeau allenatore dell'anno senza nessun dubbio, stessa roba per Derrick Rose come miglior giocatore del campionato. Philadelphia-Miami, cappotto? 4-1, io dico 4-1, uno gliela portano via probabilmente. Flavio? Potrebbe starci, è interessante Philadelphia come squadra, non ha niente da perdere, però insomma il pronostico è abbastanza chiuso. Atlanta-Orlando? Qui guarda, sono due squadre delusione su diversi piani, nella stagione regolare ha vinto 3 volte Atlanta, quindi Orlando non dovrebbe avere vita facile ma vincerà 4-2. Flavio? Pronostico sposabile assolutamente. Un'ultima battuta, un nome. Derrick Rose non si discute MVP? Assolutamente. Flavio? Ovviamente non esiste l'MVP, è solo un tentativo di fare una scelta. Derrick Rose per certi criteri lo è e poi lo sarà, verrà eletto lui sicuramente. Poi ci possono essere anche altri criteri, però di certo è un giocatore speciale e stiamo appena vedendo l'inizio di tutta la storia. Ragazzi, abbiamo scritto tutto, verbalizzato tutto, con te, caro Flavio, ne riparliamo a lungo. Lo so. Grazie, ci sentiamo domenica con Flavio ciao. Tranquillo, ci ritroviamo, io spero presto con Guido. Quando volete, tanto non sono neanche troppo distante, 5 minuti di macchina e mi ripresento. Grande Guido, grazie davvero per essere stato con noi. Con lo Sport ci sentiamo domani pomeriggio, dalle 5 alle 6, regolare, poi domenica 4:30, 7 per Formula 1 e soprattutto calcio, e poi la sera basket, palla spicchi, 8:30, 9. Vivo qui. Ti abito porti qui. La schiscetta anche. Nel weekend io abito qui con la schiscetta e la brandina. Fantastico. Grazie Guido Pagatta, a Franco Piattarita in redazione. Fabio Cantadori in regia domani.